inutilă ca gură, le simt vodă cum o fană lină. Ca simță de lingua, nu-l să fană lină. O sfărtă ca pe faină, pușa mină la cină. O sfărtă ca pe faină, pușa mină la cină. La vita lascia lividi, visibili. Io corro e non mi fermo finché supero i miei limiti. Ma quali mari limpidi? Io solco sto deserto per cambiare ciò che ho dentro, perché è quello che mi sento. E scusa se dissento, ma qui è tutto irreale. E la vita qua non cambia se non sei tu a cambiare. Ma qua chi sposa il vizio è il primo che cade. Qui c'è uno sposalizio tra la mia vita ed il male. Questa musica è salvezza, una ricchezza senza eguale. L'uscita di sicurezza è scritto il volo senza ali. Lei mi salva da tutti i miei problemi abituali. Quando mi sporco fuori e vedo le anime sui davanzali. La melodia suona lenta ed ho la pelle d'oca. Sono sempre stato diverso da tutta sta gente vuota. E tanto qua tutto cambia, vedi qua gira la ruota. Ma se vuoi rendermi felice mi basta solo una nota. Rendimi felice, fammi sorridere. Quando il buio che temiamo si possesserà anche di noi, senza nessun accanto, intrappolati dentro ad un pianto. Il sole sorgerà, nasconde il cuore in cassaforte e vola via di qua. E se la vita mi fa schifo è perché sono passato da essere amata ad essere suo impiegato. Ma si sa che non ho mai veramente amato chi non mi ha lasciato almeno una volta il cuore spezzato. La mia vita è un lancio da un aereo ma senza paracadute. I miei occhi urlano tra tutte queste persone mute. Le lacrime non l'ho mai avute, al massimo l'ho bevute. Ci ho fatto un cocktail, ho brindato a queste prostitute. Qua gli amici ti parlano ma io non voglio ascoltarli, perché so che se ne andranno senza manco salutarti. Dopo un gioco di sguardi ho smesso di pensarti, perché sono stufo di soffrire per una serpe sui tacchi. Grazie alla quale sprofondi in un buio che ti divora. Sofferenza pura che aumenta ora dopo ora. Il male si annida nel tuo cuore, la suono a dimora. Te lo frantuma in mille pezzi e piano piano lo assapora. Alle persone con il cuore gli ho sempre dato valore, ma alla fine ho perso tutto come in una mano a poker. Ho scommesso tutto ma la vita è un asso nella manica. Io purtroppo ho solo un mazzo al posto dell'anima. Questo mondo lo sai, ognuno è diverso. C'è chi fa la guerra, io la faccio come stesso. Non basterebbero due cuori per contenere il dolore che portano me all'autodistruzione.